Qualcuno ha visto in giro il detersivo, era lì vicino alla TV. Stavo spolverando e starnutivo, ora non lo trovo più. Non mi sento libero più adesso, schiavo della polvere. Sia chiaro, non mi riconosco, ho comprato anche l'ambipure. Quando torna il sole e dovrei pensare a lei, tiro fuori le camicie per la lama, la lama, la lama. Ti dice, non mi sopporto, non mi sopporto, non mi sopporto, non mi sopporto più. Non mi conosco, non mi rilasso, non mi sopporto, non mi sopporto più. Piegamento e deglutire piano piano. Quando esco non so mai se torno, sono pericoloso. Ho comprato un altro cactus solo per il vaso. Dolce amore mio, posso chiederti una cosa? Hai comprato le friselle? Sono una cosa meravigliosa. Non mi sopporto, non mi sopporto, non mi sopporto, non mi sopporto più. Non mi conosco, non mi rilasso, non c'è un problema, non sopporto neanche te. Applaudi in aereo, dopo l'atterraggio. Stai suonando il clacson al termine del rosso. Da come mastichi la gomma riveli quello che c'è sotto. Le labbra nuove gonfie fanno moda come